Oh yeah, e me la spaccio. It's music. Check. Yo. Let me start off by saying, yes, it's music. How are you, you fucking motherfuckers? Just feel home, hey. Pare proprio che repare sia appannaggio di pochi. Chi è incensurato resta fuori anche dai giochi. Chiaro che la chiosa è mesta, ma non ce n'è se non sei gangsta. Bugi resta rasta, ma per quel che costa si stimola e trastulla con il tema della festa. E tosto imposta questa pista lesta, con la risata della sista bestia. E me la spaccio, e faccio il macio. E c'ho una frase del padrino tatuata sopra il braccio. C'ho tre pallottole nel cuore, quattro nel cervello. Io ragiono con l'uccello. Comincia la caccia, c'è chi c'ha voglia di ciccia. Si beccia la biccia, riccia, spiccia, alticcia. Che ciondola le tette a bisacce, ciuccia. Una buncia da denuncia, ma non rinuncia. C'ha capuncia di sta funcia, le rappresenta una casta vasta. Sotto la nasta lei c'è rimasta, masticatissima nella testa. Fiuto la busta e l'asta si intosta. E allora tasta, stasta, che qua sta. E ancora gusta, stasta e non guasta. Sta. E me la spaccio, e faccio il macio. E c'ho una frase del padrino tatuata sopra il braccio. C'ho tre pallottole nel cuore, quattro nel cervello. Io ragiono con l'uccello. Oh yeah. C'ho la mia vodka, Red Bull, tre Pitbull. Più che old new voglio fondare la mia school. Son cool e non me ne scuso. Son teso, tutto compreso. Ci ho creso, t'ho steso. Credo solo a ciò che vedo, tipo Tommaso. Ha, l'hai mossi i tuoi passi, mo fissi gli abissi. E porco dissi, beccati il dissing. Tu, parruccato, plasticato, impacchettato e poi venduto sul mercato. Peccato che ci avevi dello stile, mamma mi sei diventato. Oppure più posticcio di Renato. 0, 1, 2 in pagella. Sembri Cenerella con la salmonella. Bella lì dicevi, facevi good fella. E mo sei come un pugile che non cartella. E me la spaccio, e faccio il macio. E c'ho una frase del padrino tatuata sopra il braccio. C'ho tre pallottole nel cuore, quattro nel cervello. Io ragiono con l'uccello. E me la spaccio, e faccio il macio. E c'ho una frase del padrino tatuata sopra il braccio.